Italia in controluce. Seconda edizione di Italia in controluce, oggi è il 18 gennaio. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Il 18 gennaio 2010 andava in onda la prima puntata di Italia in controluce. Un format nuovo, un quotidiano in due edizioni, però con un taglio da magazine. Un anno di inchieste, reportage, servizi, approfondimenti, interviste. Un anno di cronaca, di politica delle città, di viaggi nell'Italia che non si conosce e che non appare spesso sui grandi giornali nazionali. In un anno abbiamo trasmesso oltre 1000 reportage. Abbiamo cioè dato voce a 1000 realtà italiane diverse, dai campi nomadi delle periferie delle grandi metropoli del nord fino alle discariche del sud, e fin dentro nei consigli comunali, nei piani regolatori delle città, negli ospizi, nelle case di cura per anziani. I nostri microfoni hanno raccolto storie di magistrati, imprenditori, cittadini riuniti in associazioni in prima linea contro le mafie in Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, ma anche in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, comunque sempre contro le illegalità. Anche nel futuro, anche nei prossimi mesi, Italia in controluce proseguirà nel solco già tracciato, cioè un giornalismo d'inchiesta non ideologico, che però non fa sconti a nessuno e comunque resta dalla parte degli ascoltatori e dei cittadini. L'ultima intimidazione sabato notte, quando ignoti hanno bruciato uno dei suoi chioschi di fiori a Parabiago, comune a ovest di Milano. A Frediano Manzi, presidente di SOS Racket e Usura e vittima da anni degli avvertimenti delle cosche che operano nel capoluogo lombardo, continua la sua battaglia. La sua associazione opera da sempre per dare una mano agli imprenditori taglieggiati dell'indifferenza, dice lui, dello Stato. Jacopo Matano ha intervistato Frediano Manzi. Questa è una delle ultime minacce che sono seguito di una escalation molto preoccupante che è avvenuta soprattutto negli ultimi due mesi, e quindi è chiaro che con tutti i fronti che abbiamo aperti, come denunce, il racket degli alloggi, il racket delle pompe funebri, abbiamo una serie di potenziali nemici. È chiaro che da parte mia c'è molta preoccupazione su questo. Ecco, tra tanti nemici chi c'è secondo lei dietro quest'ultimo attentato? Ma secondo me, ma è una mia supposizione, queste intimidazioni vengono da ambienti della criminalità organizzata, quindi direttamente 'Ndrangheta, perché siamo stati particolarmente attivi in questi ultimi tre mesi nel denunciare le loro infiltrazioni, anche con video, anche con denunce pubbliche, con nomi e cognomi, soprattutto nell'interland milanese. Può fare una stima di quanti sono più o meno a Milano gli imprenditori che sono minacciati dalla 'Ndrangheta? Noi abbiamo fatto una stima che tra Milano e provincia ogni anno 20.000 persone finiscono sotto usura ed estorsione, tenendo conto che l'usura qui nel nord Italia serve per appropriarsi delle proprie attività, cioè si danno i soldi in prestito per poi entrare in possesso dell'attività e quindi riciclare denaro. Anche se i dati forniti dalla polizia, che parlano di 5 denunce a Milano di usura, stridono con quello che noi diciamo, come stride anche questo dato con l'operazione Infinito, dove è stato accertato che ci sono 200 imprenditori vittime di usura ed estorsione e che non c'è una sola denuncia. Quanti di questi imprenditori si rivolgono alla vostra associazione? Abbiamo almeno un centinaio di casi di vittime di usura ed estorsione tuttora in corso, vuol dire persone che sono vittime in questo momento di usura ed estorsione e non denunciano perché non hanno più fiducia nelle istituzioni. Istituzioni intese come non carabinieri e magistratura che fanno egregiamente, o polizia che fanno egregiamente il loro lavoro, ma istituzioni come Stato. Lo Stato non c'è in questo, non è a fianco degli imprenditori. Lo Stato fa una campagna pubblicitaria mediatica sui nuovi giochi, ma non c'è una sola campagna di incentivo alla denuncia e di supporto alle vittime. A proposito di istituzioni, lei ha ricevuto attestati di solidarietà da parte di alcuni partiti, ma pensa che la politica lombarda stia sottovalutando il problema dell'infiltrazione delle cosche nel tessuto produttivo? Sicuramente una politica più attenta ci dovrebbe essere, perché vedete, noi stiamo denunciando da tempo che la regione Lombardia si sta trasformando come territorio. Qui sta succedendo quello che succedeva 20 anni fa in Sicilia, dove c'era il negazionismo sulle mafie, dove si doveva far passare un messaggio che tuttora viene fatto passare qui in Regione Lombardia, dove non esistono le organizzazioni criminali, dove Milano è quella da bere, dell'Expo e della moda e dello shopping. Non c'è una Milano alternativa che è quella delle case popolari, dove la criminalità organizzata ha creato dei quartieri come Scampia. Non esiste l'infiltrazione dell'andrangheta, diciamo, nell'hinterland milanese. Tra le ultime intimidazioni, 3 settimane fa, proprio al suo chiosco di fiori è arrivata una telefonata. Cosa vi hanno detto? Sì, una commessa, la mia dipendente, ha ricevuto una telefonata dove hanno ordinato in sostanza una corona da morto da inviarmi, e quindi voglio dire il messaggio era ben chiaro. 2 giorni dopo il No Mandalari Day che avevamo organizzato a Bollate, un'altra telefonata dove appunto c'era una minaccia diretta nei miei confronti. Pensa di aver bisogno di una scorta personale? Guardi, io penso che questo problema sia delegato a chi è preposto all'ordine pubblico e sicuramente non a me. I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Se non hanno ritenuto necessario aumentarmi le misure di sicurezza che io già ho, che quindi una tutela dinamica, voglio dire che è una questione che va, diciamo, risolta da loro, non sicuramente da me. Le chiedo di non rispondere se non vuole. Abbiamo letto sui giornali che a settembre c'è stato un momento in cui lei ha pensato di non farcela e di farla finita anche con la vita. Ha pensato che queste battaglie non portassero da nessuna parte? Sì, è vero, come tutte le persone umane hanno i propri momenti di debolezza. Io ho avuto un forte momento di sconforto causato anche da questo, diciamo, tentativo che noi stiamo facendo di lottare, facendo comprendere, diciamo, ai nostri figli, ai nostri giovani che le cose possono cambiare. Ma quando veniamo continuamente ostacolati da tutti e quindi si è in molti casi anche delegittimati, purtroppo, come tutti gli uomini, uomini fatti in carne e ossa hanno i loro momenti di debolezza, crollano. Le attività dell'associazione però ora sono riprese come prima. L'ultima denuncia depositata da noi è di 3 giorni fa a Como contro una banda di siciliani che sta facendo usura e estorsione ad almeno 30 imprenditori. Non ce la siamo sentiti di non dargli una mano e ci siamo attivati, appunto. Questo è il nostro lavoro quotidiano di ogni giorno che facciamo in solitudine e con tanta umiltà. Italia in controluce. 25 anni, tanti ne compie Zeli, che è il più famoso locale di cabaret in Italia, che nasce il 12 maggio 1986. L'idea è di Giancarlo Bozzo, Luigi Vignali e Michele Mozzati, meglio noti come Gino e Michele. Nel 1997 nasce il primo filo televisivo, Facciamo Cabaret, che nel 2000 diventa semplicemente Zeli. Marta Cagnola ne ha parlato con Gino. Se penso a 25 anni fa, quando abbiamo tirato su per la prima volta la saracinesca del locale in Viale Monza 140, direi che è cambiato tantissimo, insomma, è cambiato tantissimo, soprattutto, ma è evidente, con l'arrivo della televisione, cioè con l'incontro tra lo Zelig, il cabaret di Zelig e la televisione. Questo ci ha consentito di, insomma, diciamo pure quella tranquillità economica dal punto di vista del locale, che ci ha consentito di portare avanti il discorso della ricerca sulla comicità che abbiamo sempre fatto in tutti questi 25 anni. Comicità che quindi è cambiata ampiamente. Beh, è cambiata, sì, la comicità cambia attraverso come dire, gli utilizzatori, meglio i performer, i comici. Allora è chiaro che in questi 25 anni sono stati tanti i comici che abbiamo visto passare, ed è chiaro che c'è differenza da uno all'altro, ma non tanto dettata dall'età, non tanto dettata dal fatto che uno sia venuto fuori 25 anni fa o adesso, quanto dalle loro caratteristiche. Quindi non è una comicità che cambia in funzione dei tempi che cambiano, cambia in funzione dei talenti che si avvicendano, insomma. Buongiorno, la disturbo? Guardi, se toglie il punto di domanda la frase è giusta. È venuto a piedi? No, con la macchina. Ha la patente? No, una delega da Niki Lauda ho. Quest'anno più satira, indipendente anche nonostante la testata. Sì, la satira è, cioè, noi l'unica discriminante che usiamo per decidere se un pezzo satirico è, diciamo, pure degno di essere compreso nell'offerta di Zeligo o meno è se fa ridere o meno. E siccome quest'anno le proposte erano molto divertenti, e quindi le abbiamo accettate in maniera assolutamente indipendente, noi e i comici che le faranno. Siamo un gruppo di musica popolare di centrodestra. Musica popolare? Sì, facciamo... Ma non esiste, la musica popolare è storicamente di sinistra, le mondine, gli scariolanti, a massacrare gli anarchici. Che... È un vecchio cachet che lo dobbiamo scancellare. C'è la globalizzazione, la gente sono di destra, il popolo è delle libertà, non lo dico io, lo dice il nome di un partito. Che il popolo è delle libertà, voglio dire. È una tautologia. Poi se due italiani su tre si fidano di Silvio Berlusconi, voglio dire, un motivo c'è. E qual è? E che cazzo ne so, domandecelo. 150 anni dell'Unità d'Italia, voi l'Unità d'Italia l'avete fatta quasi tutta, manca ancora poco. Sì, mancano, credo, la Valle d'Aosta, mi pare, che non sia ancora rappresentata nei, credo, 120 comici che in questi 8 anni di prima serata sono passati sul palcoscenico di Zelig. Stiamo cercando per colmare questa lacuna, per cui i prossimi anni sono dedicati a trovare il comico valdostano. Goffredo Mameli, a soli 20 anni, in un giorno solo, compose un inno per una nazione, in un giorno solo. Mameli, ma chi sei, Mogol? Ultima curiosità, quanto pensate che Zelig sia all'origine del successo del cinema italiano degli ultimi periodi? Beh, insomma, adesso non è che ci sventoliamo le penne di pavone per questi clamorosi. Certo, non c'è dubbio che abbia un ruolo, non c'è dubbio che abbia un ruolo, nel senso che... Se guardiamo gli incassi del film di Bisio, del film di Checco, ma anche quelli prima poi di Ficcare Piccone, insomma sono tutti personaggi, gli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo, sono tutti personaggi più o meno legati all'area di Zeli, quindi insomma ne prendiamo atto, devo dire spesso anche con rammarico, se posso essere sincero, perché è chiaro che quando poi un comico sfonda al cinema non è più così tanto incentivato a tornare a Zeli perché ha altro a cui pensare, e quindi noi rimaniamo, come dire, mutilati da questi trionfi cinematografici, però siamo veramente contenti per loro. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, l'archivio di tutte le puntate sul nostro sito radio24.it. Poi vi ricordo il blog di questo programma, sempre sul sito radio24.it. Su Facebook trovate Radio 24 Italia in Controluce, il nostro gruppo. Su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6:30 puntuali su Radio 24.